has some explanation for that. We have time. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich. Pretty spectacular. God. What is that there? That's Roger. Hollow. That's what the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger. We got it. We paused it. Lose communication. E buonasera, sì, buonasera di nuovo, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari esseri stellari. C'è qualcosa di acceso, ma noi facciamo finta che non ci sia, perché si sente, maestro, non ti preoccupare. Buonasera, maestro, salutaci al microfono invece, buonasera. Ciao, ti si sente fin troppo bene, caro maestro. Siamo tornati alle origini, così come fu nella prima puntata. C'è di nuovo con noi Gengè. Buonasera Gengè. Buonasera. Buonasera, regoliamo i volumi, sto sbagliando. Com'è? Si sente? Si potrebbe sentire meglio. Allora, siete tutti come senza cuffie. Come succede spesso nella vita. E non serve a niente. Il tempo non esiste. No. Di conseguenza, lei non è mai andata via. E il tempo è circolare. Questo è anche molto vero. E il mio microfono continua a sentirsi poco? Si sente molto bene adesso. Ah, direi. Vedi? Allora devo regolare sbagliamo un attimino gli effetti, ma insomma lo facciamo strada facendo, nel mentre in cui annunciamo gli altri ospiti, perché questa puntata è molto ricca di personalità. Infatti ci sono con noi di nuovo gli esimi professore ricercatore del DUSA. Professore, saluto lei per anzianità e prestigio, buonasera. Proprio la scelta corretta. Qua con me c'è ancora il mio dottorando, vabbè. Professore, colpa mia, non la stiamo sentendo bene, ma sto sbagliando io con il microfono. Di nuovo buonasera però. Buonasera. Non sono degno di sedere allo stesso tavolo del maestro. Sicuramente non sulla stessa sedia. C'è una competizione di maestri, vedo. No, è un No, in realtà mi riferivo proprio al maestro. Sbagliato io. Maestranze. Maestro, chiedo perdono a lei se ho pensato che ce ne potesse essere un altro. Non c'è assolutamente nessun problema, anzi... Io dico che ce ne sono sicuramente altri di me stessi, intendo. Hai a che fare col concetto di multiverso? Certo. Perfetto. È qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco. È una cosa di cui sappiamo spaventosamente poco e, come dire, qualcuno ci ha provato in vari modi, no? Film della Marvel ultimamente, ma già anche prima nei fumetti. Ma come dire, Futurama anche mi viene in mente, tutta un'altra serie di cose. Qualche teoria fisica. Sì, sì, è multiverso interessante. Meno importante della forse Marvel, dovremmo pensare una puntata, forse. Forse potrebbe essere questa. No, non è vero, non lo sarà, perché questa puntata qui invece che cosa sarà? Che cosa sarà? Non c'ho? Aspetta. Bella la base, bella, molto bella. Sarà una puntata in cui, maestro, ci hanno un po' sgridato, perché francamente... Ti trattiamo troppo bene, siamo stati rimbrottati per questo, perché ti trattiamo troppo bene, eri stato messo un po' in difficoltà all'inizio, poi ti sei sistemato troppo comodo su quella sedia lì, ti sei trovato troppo a tuo agio, hai avuto troppi interlocutori. Sono qui per questo. Sì, è vero, questa è la storia. Gengè è qui per mazzolarti un pochino, mentre quelli dal DUSA, scusate. Ma come si permette? No, ma non riaccadrà, dopo la tagliamo nel post-editing. Gli esimi ricercatori e professori del DUSA sono con noi invece per sostenerci e insomma porti a delle domande, rispondere a quelle a cui tu non saprai rispondere, perché ti faremo un po' di domande, è così. E chi ha detto che tutto questo non mi piaccia? Nessuno, anzi ci immaginiamo che sia perfettamente il tuo ambiente. Infatti raccogliamo da subito domande, potete scriverci su direttawombat.vado.li oppure su postawombat@insiberia.net. Bevi maestro, bevi, come si dice, bagnati l'ugola e preparati per questa sessione di questioni. insieme a Gengè, insieme ai professori, ricercatori del Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche. Maestro, qualcosa da dire? Certo, tutto, sì? Tutto ciò che inizia con le quattro lettere Q, U, E, S, anzi cinque lettere Q, U, E, S, T, io ci sto dentro. Che vuol dire? Era uno spelling della parola quest, che in inglese può avere vari significati. Non quello di mandarino, però. No, quello proprio no. Quello no. Tra l'altro, l'essenza di mandarino o di arancia è una delle componenti della pastiera, maestro, che vi avrei detto prima, ma a sto punto ve lo dico adesso. Continuo a godere. È il momento di una canzone di introduzione e via, e si parte. Allora, no, mi sono scordato di nuovo il riassunto, sto facendo un disastro, quindi prima o poi faremo una puntata speciale dove rimetto tutti i riassunti, sono terribile. Oppure una puntata speciale senza Mario, sì, magari. Forse sì, tanto ormai siete autonomi, però ho ancora il possedimento del mixer. Fintanto che ho le chiavi del mixer non mi potete esautorare da qua. Grande pezzo questo. We'll be right back. E ci siamo di nuovo in diretta col Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche, con Gegè che mangia e col maestro Ottani che ha un fiorellino sul maglione. Io l'ho portato io. Sei stata molto carina. Che fiore è? Maestro, aspetta, vediamo. Maestro, che fiore è? Questa è la prima domanda. Questa è la prima domanda. Sì. Oddio, questo viene da un albero, però non so quale. Allora, se la caratura delle risposte sarà questa, maestro, iniziamo malissimo. Poteva essere anche un arbusto o una pianta. C'erano altre due possibilità. Sento rumore di unghia su uno specchio. Che colore è? Descrivici il fiore, maestro. È bianco, piccolino e si presenta in costellazioni di ammassi stellari tra foglie. Ha una struttura frattale? A frattale? No. No, peccato però un po' che non l'abbia. Peccato. Cos'è un frattale, maestro? Allora, un frattale è un concetto. No, non è solo un concetto. In realtà la geometria frattale è un tipo di geometria che io conosco soprattutto, per esempio, il frattale di Mandelbrot, che era un matematico degli anni 80-90, non mi ricordo bene, prima ancora, vero? Molto prima, soltanto con un gesto delle mani, sì. Molto prima, certo. Ma per esempio mi viene in mente anche il frattale di Peano, no? Sono giusto? No. Non piano, aspetta. Piano. C'ha un frattale anche lui. È tipo a forma triangolare. Piano era un matematico torinese. Sì, è proprio lui. Comunque, i frattali sono interessantissimi. Grazie, professore. E ho notato che ultimamente hanno ispirato tantissimi. Hanno ispirato tantissimi. Hanno ispirato tantissimi. È pur vero. Hanno ispirato tantissimi artisti ultimamente. Sì. Artisti. E volevo dire, non so, architetti, compositori, tipo, coreografi. Diciamone uno. Me. In veste di coreografo. Questo ci ricorda, ci offre la sponda per ricordare a tutti che le iscrizioni al corso di matematica, numerologia e geometria sacra sono aperte presso il dipartimento. Quanti crediti sono per questo corso previsti? Troppi. E quali prerequisiti? Tutti. Una certa conoscenza della gematria e della numerologia tradizionale sarebbe assolutamente consigliabile. Inoltre, se non si riesce a trovare da soli la sede del corso, chiaramente si è automaticamente esclusi. Certo. Avanti, maestro, non ci hai soddisfatto molto, eh? Devi essere più pronto per le prossime. Frattali, no, ma io sui frattali ce ne ho ma ancora non da dire abbiamo un tempo. Sacco. Velocemente, hai tipo 30 secondi, okay. Poi c'è un'altra domanda. Ok, va bene. La cosa molto interessante dei frattali è che ci fanno comprendere che la nostra prospettiva è molto localizzata a qualcosa, come dire, di locale, appunto. E mi fa pensare anche al fatto che tutto ciò che è nel piccolo è anche nel grande, nel senso realtà olografica. Sto parlando di realtà olografica. Certo, certo. Definisci realtà olografica per chi non capisce. Realtà olografica. Allora, la realtà olografica, ora qui chiedo anche un attimino il sostegno degli esperti del DUSA, ma da quello che, come dire, sono le mie basilarissime nozioni, la realtà olografica è un qualcosa che ha a che fare soprattutto con i nostri sensi e con la nostra percezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che noi percepiamo come solido, come liquido, come gassoso, comunque come tutto quello che possiamo percepire attraverso i sensi, quindi suoni, colori, le differenze di frequenze, queste cose qui, sono semplicemente frutto di una lettura di una determinata frequenza, appunto, o vibrazione, se vogliamo. Vogliamo. Che non ha molto a che fare con la realtà dei fatti. Mi viene in mente per esempio il velo di Maya e il noumeno in questo senso. Scusa Schopenhauer. Scusa Schopenhauer, davvero, comunque scusa Schopenhauer. Soggettivismo solipsistico. Come avevo alzato la base, scusa, come? Soggettivismo solipsistico. Soggettivismo solipsistico. Chiaramente da buoni scienziati, noi del Dipartimento di Ufologia e Scienze Ellenistiche tendiamo ad allontanarci da queste mere speculazioni pseudoscientifiche. Quello che piuttosto tendiamo a sostenere è il fatto, quando ci riferiamo a realtà orografica, è il fatto che notoriamente viviamo in un matrix creato dai potenti dei macchina che si nutrono di noi nelle vasche di liquido amniotico. Ma mi scusi, ma per me si implementano le due teorie o no? Nel senso, cioè... noi viviamo quella, come dire, quell'inganno in questo modo. Ma sì, però diciamo che noi al DUSA tendiamo ad attenerci ai dati scientifici e verificabili, come ad esempio la presenza di agenti del Matrix in questo momento, in questa stanza. E di un buco al centro della Terra, come si diceva, tipo che attraversa dal polo nord al polo sud. Tipo, come il si fatto diceva... che lui stia sviando vuol dire che è su di lui che dobbiamo far ricadere i sospetti di chi sia l'agente del Matrix in questo momento, in questa stanza. Ma quegli occhiali da sole non li aveva prima, maestro. Maestro, cos'è quella luce? Molto bello. E andiamocene via, maestro, portiamoti in terre più cognite per te, perché poco prima di iniziare questa trasmissione ti hai detto una cosa assurda. Hai detto, poi ti ho fermato io perché ho detto ora ce la dici, cazzo. Hai detto, l'ho segnato, sì. Guarda, ma la conosci, così hai detto con questa intonazione, ma la conosci quella teoria dei funghi allucinogeni che... E là ti ho fermato perché ho detto cosa cazzo fanno i funghi allucinogeni secondo allora me. Io l'ho sentita, ti giuro, l'altro ieri, non so, l'ho vista su qualche video su internet, non ho idea, non mi ricordo infatti nemmeno. Noi comunque quelli che sono citiamo le fonti, ragazzi. Comunque il livello di attendibilità, scusate, urlato, il livello di attendibilità delle fonti è pari al livello della risposta di prima. Ma la nostra bibliografia la diciamo in apertura proprio per, cioè, io non mi ricordo quelli che sono stati i fautori di questa teoria, però si tratta di due studiosi, a quanto diceva il video, negli anni 70 del Novecento, nel 1970, o comunque all'inizio degli anni 70. Qualcuno ha studiato qualcosa a un certo punto della storia? Se ne sono usciti con questa teoria, che secondo me è interessante, è un po' Ma concentriamoci sulla teoria, Cincespe. È un po' sulla stregua della scimmia acquatica, se ci pensi, no? Ginger, la conosci la teoria della scimmia acquatica? La famigerata. Certo, la famigerata. Prego, maestro. Ecco, se pensiamo alla teoria della scimmia acquatica come a una sorta di volontà di spiegare in qualche modo vari buchi che ci sono all'interno dell'evoluzione da scimmia a uomo, ecco, questa è un'altra che riempie un grosso buco in teoria. E lui, questi qui hanno detto questa roba, che praticamente gli ominidi che dovevano essere praticamente homo habilis, più o meno, a un certo punto annuiscono tutti comunque, hanno maestro, iniziato tutti, a mangiarsi questi funghi allucinogeni perché crescevano sulle chiazze di terra su cui cascavano gli escrementi degli animali che cacciavano. Quindi seguendoli non annuiscono più. Non ho capito il passaggio per gli escrementi. Nel senso questi ominidi erano cacciatori e quindi seguivano queste carovane di animali, magari di erbivori, non so, di un certo tipo, e li seguivano per cacciarli, effettivamente. Sì. Seguendoli per cacciarli, chiaramente, se voi seguite un gruppo di animali, la prima cosa che incontrate prima di incontrare gli animali è la loro merda. No, è la loro merda. Perché questi cacano e poi vanno avanti. Questo mi sembra ovvio, no? Certo. Okay. Anche qualche carcassa, magari strada. Esattamente. Dice che da questo tipo di... Potresti trovare anche dei segni di conflitto, per esempio, con un animale tipo predatore. Per esempio. E da questo tipo di escrementi, di cadaveri, eccetera, dice, nasceva questo tipo di funghi carico di psilocibina. Noi sappiamo che la psilocibina è una molecola che, come dire... poi all'interno del corpo umano si trasforma in qualcos'altro che non me ricordo come si chiama assolutamente... Però che ad un certo punto diventa psicoattiva sta roba per l'essere umano, ma psicoattiva a dei livelli abbastanza importanti, come dire. Così tanto che? Dice che questo tipo di frequentazione, diciamo, della sostanza psicoattiva ha fatto sì che l'ominite iniziasse a vivere tutta una serie di esperienze molto sinestetiche che gli permettevano allo che vuol dire sinestetica? Vabbè, ma questo non lo so, io non lo so, io davvero non lo so, scusateci. Sinestetico vuol dire che unisci più sensi insieme. Ok, grazie. Ecco. Cioè, tipo, per esempio, sinestesia... Grazie anche tipo... te, maestro, che comunque... Grazie, grazie mille. Era per dire, puoi, che ne so, assaporare i colori o ascoltare i sapori. Sì. Questa è la sinestesia. O vedere ah, i suoni. Sì, la figura retorica. Vedere i suoni. La figura retorica. Ma quelli si possono già vedere. Ah, no, scusate. Ma questa cosa poi in qualche modo, cioè, serve a spiegare, tipo, perché si è sviluppata la corteccia prefrontale o non c'entra niente? Una roba del genere, una roba del genere. Una roba del genere. Aspetta, hai detto che spiega un buco dell'evoluzione? No, io ho detto che ho visto un reel, è molto diverso. Il reel? Manco un video? Sì. Alla fine è venuta fuori sta roba, va bene. Apprezziamo come sempre il rigore bibliografico del maestro, ma noi del dipartimento ci teniamo a precisare che questa teoria, anche nota come teoria della scimmia drogata, è stata quella acquatica da un grande scienziato. Davvero, vabbè, così sì. La teoria della scimmia fatta. Scusi, dottore. Altresì. Dicevo, la teoria della scimmia fatta, che appunto è stata proposta da un personaggio che si descriveva da solo come un etnobotanico e un mistico, di nome Terence McKenna, in un libro intitolato Il cibo degli dèi. Uno scienziato. Sì, lo definirei così, un vero scienziato. Diciamo che se fosse ancora vivo oggi sarebbe sicuramente un membro ad honorem del DUSA. Ma comunque l'idea era proprio questa, che consumando i funghi che crescevano negli escrementi delle mandrie, di bovini, di grandi animali, di bestiame, che gli uomini cacciatori raccoglitori seguivano per procacciarsi il cibo, questi uomini appunto consumando questi funghi abbiano avuto tutta una serie di modifiche a livello del cervello e quindi hanno avuto un contributo piuttosto sensibile allo sviluppo del linguaggio, allo sviluppo della religione, dell'arte, della cultura. Teoria incredibile, è bellissimo. Sì, professore. Io la approvo in pieno. Cioè, se qualsiasi cosa valga la mia approvazione. Va bene, ok. Se posso firmare, dice. Cioè, esatto. Diciamo comunque più realistica della teoria di un certo questionabile antropologo e storico, di un certo questionabile statuo. Diciamo non esattamente. Come potremmo dire che sostiene legittimo? Che... No, l'ho detto io professore, l'ho detto io. Che sostiene che il salto cognitivo sia avvenuto nell'evoluzione della specie umana grazie al gossip, per la quale si formavano alleanze interne ai gruppi e quindi per, come dire, espletare la tendenza all'antagonismo interno ai gruppi si sarebbe sviluppata la possibilità. Questa è la teoria della scimmia frenzola. Esatto. E quindi in questo senso in questo senso quindi una pubblicazione periodica come Chi, per esempio, diventa uno dei reperti più, come dire, moderni, più ancorati alle nostre radici ancestrali del pensiero. Questo è incredibile, bellissimo. Costa solo €1,50 probabilmente. È un mondo stupendo, caro editore, stupendo. Avanti tutto. Segnalo anche che esiste anche un altro tipo di teoria che lascerò appunto alla dottoressa Gengè il compito di nominare a questo punto, secondo la quale la cosiddetta teoria della mente bicamerale, la quale sosteneva che anticamente la coscienza umana del cervello era in un certo senso diviso in due. Questa teoria si basa principalmente sulla lettura di certi testi antichi, come ad esempio l'Iliade, in cui molto spesso si afferma che gli eroi, i personaggi, sentivano nella loro testa le voci degli dèi. In realtà questa teoria sostiene proprio che un tempo il cervello era costituito da due emisferi che non comunicavano esattamente tra di loro, o meglio, lo facevano ma solo in modo parziale. Quindi era come se un tempo tutti gli esseri umani sentissero nella loro testa altre voci che in realtà provenivano dall'emisfero del cervello che non era quello che utilizzavano. Ce l'ha. Vuoi sentire? A un certo punto, nel corso della storia umana, questa connessione fra i due emisferi si è andata a rompere e quindi noi, dopo un certo punto della storia, non abbiamo più sentito le voci degli dèi che ci parlavano. La teoria della scimmia DJ. Bella! I due piatti. Esatto. Teoria della scimmia DJ, mi piace. Molto bene. Io ho una storia più incredibile. Ma la conoscevi questa, maestro? Io ho una storia più incredibile di tutte quelle dette finora. E... io alzo la base di questo pezzaccio che si chiama Sexy Planet. Sapete tutti cos'è la o il, non lo so, DMT? Non conosco il nome della molecola per intero. È distribuita alle macchinette del DUSA solitamente. Insieme alla spezia? Assolutamente. E ai caffè espressi. Perché... No, non so perché l'ho detto. In realtà... Poi un quel pathos. Sì. Non lo so. E... praticamente tutti quelli che esperienziano questo tipo di sostanza e che quindi fanno in qualche modo una sorta di proprio sperimentazione, direi, della sostanza, bene o male, più o meno, raccontano tutti di una serie di esperienze che sono piuttosto similari tra di loro. O l'incontro con delle entità che dicono più o meno le stesse cose, che si assomigliano più o meno tra di loro, il vedere una sorta di geometrie frattali, e rendetevi conto di come sto andando a unire tutta una serie di discorsi che abbiamo anche detto prima. Questa si chiama, cioè, si chiama capacità di sintesi. Ho una domanda. Non so, sì. Sì, sì. Ci sono delle, si sa, queste persone che hanno fatto queste esperienze, se erano tutte che provenivano tipo dallo stesso paese, stessa cultura? Si parla di persone che sono, come dire, trasversali a livello di tutte le categorie. Parliamo di persone, diciamo, di un'età compresa, ti direi, dai 18 ai 90, perché comunque minorenni penso non l'abbiano nemmeno considerati nel campione. Ovviamente ci sono dei paesi tutti... dove si diventa maggiorenni a 21 anni comunque. Sì, sì, ma infatti anche 16 anni facciamo, non lo o so. 16 invece. Sì, sì, infatti non volevo parliamo mettere dei paletti precisi. Mi sembra parliamo irrilevante. Dell'età limite per il DMT. Mi sembra irrilevante questo dato, però. Maestro, lei è al momento sotto effetto di questa sostanza. Chi può dirlo? Lei vede dei frattali. Lei prende né negare né confermare. Chi può dirlo? O anzi, tu lo dici. Cristologica, più. Ma c'è un punto a questo discorso? Sì, però lo decido io quando arriva. No, quindi... perché abbiamo molte altre domande da farti. E sì, voglio dire semplicemente ricordare... questa cosa. Oltre agli esseri umani, alla specie degli esseri umani che fa uso di questa sostanza in maniera sperimentale e ludica, allo stesso modo si è visto lo fanno i giaguari. Nella foresta... nella foresta amazzonica, nella foresta tropicale, i giaguari sleccazzano la DMT e si fanno i viaggi. Sono i giaguari. E le persone che hanno fatto uso di DMT dicono che nel trip incontrano anche... i giaguari. I giaguari. È un mondo pazzesco. Straordinario, è un mondo bellissimo. E l'hanno detto prima ancora di saperlo, era ovviamente impossibile che lo sapessero. È una grande certo epoca, importante. Veramente una grande è epoca. È incredibile. Perché... io sono felicissimo di vivere in questa era, maestro. Ma io infatti ricordo proprio di aver parlato con un giaguaro che mi ha raccontato di aver visto le persone durante i trip. Pazzesco. Incredibile. Questo ti giuro è un, come dire, un controdato, una controprova, mi sembra... anche a me. Sufficiente. Chiaramente l'effetto indotto da questa sostanza non è altro che un cortocircuito che permette di percepire immediatamente la materia sottile che chiaramente pervade tutte le coscienze, che è quella stessa studiata dai teosofi, come ben sappiamo. E a cui, se volessimo dare un nome, potremmo dare il nome di... etere, materia sottile... qualcuno usava il nome Akasha, ma sono tutte quel mistico quinto elemento, la quinta essenza, oltre ai quattro elementi classici della tradizione alchemica e mistica, appunto l'elemento eterico che pervade l'universo e di cui appunto sono fatti i corpi celesti notoriamente, e quindi anche qui c'è la connessione con lo spazio che sta sopra di me. Eteroporto. E se siete d'accordo, per stasera sceglieremo Akasha fra i nomi possibili. Assolutamente. Posso chiedere la definizione di corpo celeste? Cioè, banalmente quello che c'è in cielo o qualcosa di più carino? Sia quello che vediamo, sia quello che ci nascondono comunque. Ok, importante sottolineare. L'elemento apotelesmatico che chiaramente con i suoi influssi predetermina le carte astrali di ogni persona, spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, grazie. L'armonia delle sfere. Cristallino, e infatti allora è il momento di un pezzaccio, però prima un'altra domanda perché sennò non riusciamo a farle tutte quante dopo. Allora intanto per chi ci volesse scrivere su direttawombat.vado.li, ho appena cancellato tutto, potete formularci nuove domande. ricordo comunque tutte quelle che ho appena cancellato, fra cui questa. Maestro, ma le scie chimiche, esattamente così? Le scie chimiche provengono principalmente da tutta una serie... No, in realtà io non credo nelle scie chimiche. Ma come, maestro? Secca, secca, semplice. Il professore comunque si indigna, maestro. È noto assolutamente è che noto. Faccio parte di un programma di sterilizzazione di massa nel quale rientrano anche altre metodologie iniettive, vogliamo chiamarle in questo modo. Ed è noto anche che i piloti degli aerei sono geneticamente modificati al fine da non ricevere l'effetto di queste sostanze. Ho sempre pensato fossero geneticamente modificati i piloti degli aerei. Avete notato come parlano all'inizio? Geneticamente modificati prima di nascere o dopo essere nati? Avete notato come parlano nell'interfono all'inizio? Scusami, non volevo, ma nel senso, vedete come parlano prima del volo? Sì, è geneticamente modificata quella roba, cioè ci sta. Sento il livello della conversazione affondare. Ma per fortuna risale immediatamente grazie alla domanda che ci stanno formulando. È possibile sul pad diretta wombat.vado.li, ci chiedono se è possibile riascoltare gli interventi del Festival della Letteratura Working Class che si è svolto alla CKN lo scorso fine settimana. Siete pratici di telepatia? Se è così lo potete fare, altrimenti no. No, non è vero, la vera risposta è che sì, ma non ancora, domani all'altro saranno caricati comunque entro il fine settimana sulla pagina di Radio Wombat, ma anche su altre pagine, comunque sicuramente su quella della radio ci saranno tutti quanti. Sì, la risposta quindi è fra un paio di giorni, sì. Ma i lavoratori della GKN sono alieni? Chiaramente sappiamo tutti l'influenza rettiliana in quella scabrosa vicenda. Va bene, pezzo. E torniamo con nuove domande. Ne abbiamo quattro. Ne possiamo raccogliere ancora un paio, direi, su direttawombat.vado.li. Poi niente, a fra poco, via. Real far and you drive all night. light, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground, and out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the sword. Don't strain your brain, pain to train, you'll be singing in the rain. Say, don't stop, do punk rock. Qualcuno mi ricorda di cosa parlavamo? Maestro, di cosa parlavamo? Di scimmie drogate, se frattali, scimmie drogati, giaguari, scimmie DJ, DMT. L'ultima era i giaguari, ci siamo arrestati ai giaguari. I sogni dei giaguari sotto DMT che si sognano gli umani. No, ma poi eravamo arrivati sulle scie chimiche. Ah, le scie chimiche. Certo, eravamo i piloti rettiliani. I piloti rettiliani. No, non era, aveva una nuova teoria questa. Poco fa era i piloti modificati geneticamente. Sono la stessa cosa. Ah. Ingegneria genetica. Ah no, i rettiliani erano gli operai della GKN. No, no, i rettiliani sono quelli che stavano cercando di liquidare la GKN. Ah, perché i rettiliani sono cattivi. I rettiliani sono tendenzialmente cattivi. Ok, questo non lo sapevo. Borgomeo rettiliano. Assolutamente cattivi. Chiaramente il DUSA, nel suo impegno per il sociale, ha applicato una lente cospirazionista all'intera vicenda GKN. Molto bene, un lavoro prezioso, grazie. Abbiamo molte domande. Allora, andiamo su questa. Ma gli avvistamenti UFO notturni, perché ci sono? Cioè, in particolare, perché gli UFO sono luminosi? Ma esistono anche gli avvistamenti diurni. Sì, ma parliamo di quelli notturni. Perché hanno la luce? Come un aereo qualsiasi. Per farsi vedere. Mi sembra ovvio. In effetti su questo ci eravamo già stati, se non sbaglio. Io ora voglio sapere il nome e il cognome di chi ha posto questa domanda. Non c'è scritto, è tutto anonimo, c'è soltanto il colore. Che ti vengo a cercare. Peraltro cancellato. Datemi nomi e cognomi. Sì. Va benissimo a voi del DUSA questa risposta per scintillare nella sì, notte. Sì, ricordo nel testo dell'alienista, era un cantante inglese semisconosciuto, mi pare si chiamasse David qualcosa, Freddie Mercury. David Bowie, forse. He'd like to come and meet us. Ah, certo, certo, no? Sì, diceva, certo. Cui, insomma, in realtà loro vogliono farsi scoprire. Star Child. Però. Posso dare un consiglio al maestro? Sì, per favore. Maestro, le consiglio di non agire in questo modo così, con questa superiorità a queste domande che le sembrano così banali, perché poi quando arriverà a aver accolto in fallo su una domanda difficile farà una brutta figura. A me qui mi sembra che ci sia della preterintenzionalità. E a me non sembra, a me no. E questo mi eccita. Tu sei. E quindi, caro maestro, andiamo avanti. Allora, questa è niente male. Cos'è questo discorso della sfinge che se la sblocchi da dietro l'orecchio sopra la testa puoi svelare il segreto dell'umanità? Di quale videogioco stiamo parlando? No, della realtà. Ah. C'è, peraltro, un... Quale versione della realtà? Allora, si dice... Allora, c'è questo tizio russo. Poi ho indagato. C'è questo tizio russo che è un ragazzotto che dice che si è reincarnato all'antico Egitto, è tipo 19 anni. Ovvio. E spiega che dietro l'orecchio destro della sfinge c'è un accesso che se gli esseri umani varcano ed entrano dentro e poi sbloccano la sfinge, c'è un meccanismo da sbloccare che porterà l'umanità a un nuovo stadio evolutivo più positivo, ovviamente, verso un futuro di gloria e luminosità. Questa cosa è suffragata da delle foto satellitari sì, che sono però... apparse, aspetta finisco, su questo fatto che la testa della sfinge, se la vedi adesso, è piatta, è tappata. È livellata. Tipo. Livellata. Sì. È un intonaco unico, diciamo, sì. Ammesso che sia intonaco. Credo che sia. Sì, per dire. Mentre in delle foto antiche, risalgono fino, antiche, insomma, negli anni 80, c'è una botola. C'è una botola. Sì, questa l'ho vista, la botola sulla testa, però allora, lei è dietro l'orecchio. Però. Stiamo parlando però di una botola forse aperta artificialmente in seguito per arrivare, però questo ragazzo russo che dice che dietro l'orecchio destro della sfinge c'è una via d'accesso. Questa domanda mi genera una domanda. Sì. Cioè, il ragazzo russo ci spiega esattamente come accedere? Ma... Perché se ce lo spiegasse esattamente, io ragazzi... Teniamo la vaga. Posso fare le valigie, vado a vedere. Che dentro la testa, dietro l'orecchio destro, sotto la testa o comunque verso la zona del cervello della sfinge ci sia qualche meccanismo strano che se attiviamo l'umanità sarà portata a un nuovo livello? Io ritengo di no. No, malgrado la foto della botola. Malgrado la foto della botola che mi fa pensare a comunque al fatto che ci sia la possibilità di accedere all'interno della sfinge. Quello che non credo è che accedere all'interno della sfinge ci faccia fare un salto a livello di specie inimmaginabile. In ogni caso voglio entro il 2025 il documentario del maestro verso il suo viaggio verso la scoperta della botola della sfinge su Netflix. Io voglio andarci assolutamente. Vorresti venire con me? Sì, se posso pubblicare qualsiasi ripresa io faccia, che ovviamente... decido io, cioè, quando e cosa riprendere. Anche in bagno, soprattutto quando in bagno. Quando mi verrà la dissenteria, va benissimo. La famosa vendetta di Tutankhamon. Senza filtri. Ma, la chiamerò Ro. Molto bello, molto bello. Ci tengo solo a precisare che tutte queste storie sul porte segrete nella Sfinge sono completamente pseudoscientifiche. Questa teoria era già stata indagata e scartata dai criptoarcheologi del DUSA, tra l'altro nella stessa spedizione in cui hanno scoperto che le piramidi in realtà sono antiche astronavi utilizzate dai signori sconosciuti alieni per atterrare nella valle del Nilo. Quindi, per piacere, non mettiamo in giro simili scempiaggini. Cioè, sì, anche perché è noto che quella della botola dietro l'orecchio sia una falsa pista, cioè fatta appunto per misorientare una nozione invece che tra gli esperti. Vabbè, ma questi sono gli informatori di Mario che sono nozione comune, cioè che la Sfinge altro non sia che un enorme serbatoio per le navi spaziali costituite dalle piramidi e per il Vril. E per il Vril. È tipo una sorta di benzinaio. Però che stile. Infatti, se avete rispetto ai nostri benzinai, metta la Sfinge. Il simbolo dell'Eni e la Sfinge non sono così dissimili. No? Coincidenze. Enrico Mattei è stato ucciso perché conosceva gli antichi segreti delle civiltà aliene. Leni degli anni 60 aveva scoperto i segreti del Vril. Questa è la vera causa del boom economico italiano, non la DC. Ah, ok, allora adesso stiamo andando proprio su livelli geopolitici seri. Incredibile, soprattutto veramente il livello di profondità, di conoscenza di voi del DUSA, i vostri veramente dipartimenti. Ma di per ricerca... favore, qualsiasi matricola di scienze esopolitiche e galattiche. Siamo solo noi cosa. Estremamente ignoranti, Mario. Siamo offuscati da questa società comunque mass mediatica che ci vela veramente la verità. Grazie comunque di tutto il lavoro che fate. E effettivamente, sì, maestro? Io vorrei però portare alla luce una teoria che si discosta da quella appena enunciata dai nostri, come dire, emeriti ospiti. Quella delle navi volanti, nel senso che le piramidi non sono altro che navi volanti. Quella è la mia preferita, forse. È molto bella, sono molto bella. I triangoloni, però... Esatto. Ora stiamo appena vedendo un reperto fotografico. Vero, abbiamo un documento, non siamo ancora in collegamento. Un daguerrotipo. Una xilografia. E praticamente... Ci stanno mostrando un reperto. È molto interessante come teoria e io, come dire, ne rimango chiaramente affascinato e allo stesso tempo credulo e incredulo se possono convivere questi stati della materia. Ma... c'è un'altra teoria che mi affascina tantissimo, il fatto che le piramidi non siano nient'altro che la punta di obelischi giganteschi interrati. Attenzione. Il DUSA annuisce, come? Certamente. Cioè, nel senso... Credo, maestro, di aver, come dire, essere incappato anch'io nella stessa informazione consultando uno di quei cosi, come li aveva chiamati prima? I Rolls. I Rilp. Esatto. Di aver, come dire, appreso questa informazione da una fonte perciò inossidabile. È totalmente nuvolosa. Quei nomi forestieri. Sì. Gli archivi dell'antica sapienza, insomma. Gli archivi dell'antica sapienza. All'interno di questi archivi io ho... Antica e attuale, perché chiaramente il tempo è circolare. Certo, non esiste soprattutto. Grazie, GG, per averci, come dire, ragguardato su questo tipo di, come dire, cosa che non si può prescindere da questo concetto. Il tempo non esiste. E se esiste, è circolare. Cioè, c'è poco da fare. Però, maestro, te stai sviando dalla questione. Allora, quale questione? Tu stai sostanziando che te ti stai confondendo con le isole di Pasqua. Con C'è anche quella. E in realtà è molto simile. Nel senso, quelli dei bomboni sotto. E sotto c'è il corpo. Sopra c'è la testa e sotto i piramidoni. I piramidoni hanno i motori sotto. Allora, c'è presente come è fatto l'obelisco, quello egiziano che è stato portato a Roma? Ora non mi ricordo come si chiama, però quello là. In cima c'ha una piramide, praticamente, che è molto più piccola, ovviamente, rispetto a tutta la lunghezza dell'obelisco. Si sta presupponendo qui che ci sia un obelisco altrettanto grande al di sotto. Essendo quello un modello in scala, diciamo. Essendo quello un modello in scala. Ma questo per mera associazione di forme simili? Perché no? Sì, Beh, mi pare un metodo scientifico assolutamente inattaccabile, voglio dire. Quali sono i problemi epistemologici di una cosa di questo genere? Io non li vedo. Bravo, Gengè, comunque hai ragione. Se nemmeno il professore li vede, però io non mi sento di schierarmi con te. Nonostante l'argomento sia ottimo, francamente. Maestro, vuoi dire qualcosa su questo? Mi si ripeta la confutazione. Cioè, che hai visto un triangolo e pensavo che quindi sembra una piramide. Chiaro, come il sole. Sì. lo sostengo e ripeto, se possono convivere questi due stati, non della materia, come ho detto prima, mi sono confuso, ma della coscienza, voglio che convivano l'incredulità e la credulità all'interno di me e anche all'interno di voi. Siamo moltitudini. Io sono commosso. Anch'io, sarebbe corretto il silenzio in questo momento, invece alziamo la base, via. Perché abbiamo ancora due domande, ma forse è il momento invece del pezzaccio riposante prima delle ultime due domande, oppure ne facciamo una ora e una dopo. Musica? Musica, mettiamo musica? Musica, musica, siamo d'accordo. Maestro, però, ascolta, prima della musica noi ti chiediamo una sentenza su, in generale, il campo di studio definito egittologia. Allora, sull'egittologia si è detto tanto, forse troppo. Quello che dirò io oggi è... Sì, rispettate le figure geometriche semplici, perché davvero è stata una campagna denigratoria e infame, secondo me. Ehi, dove siete stati? Io lo so che non le cuffie, ma dillo senza base, riproviamo. Ehi, dove siete stati? La luna. Che tu senza base? Sulla luna. No, però se è sgrammaticata la monto male per il riepilogo. Riprova, sull'ultima. Sulla luna. Bellissima, verrà un riassuntino stupendo. Allora, mi sono scordato di fare i riassunti delle ultime due puntate. Cioè, non è vero, li ho fatti, sono straordinari, bellissimi, più belli mai sentiti, però li ho sentiti soltanto io. Li caricherò prossimamente in una puntata apposita. Speciale. Special. Così come special ho bloccato tutto. Ho rotto tutto, e vai, va. Ok, ci siamo. Così come special sarà anche la prossima puntata, perché approfitto per chi ci sta ascoltando, approfitto per invitare chi ci sta ascoltando, non questo fine settimana che c'è Pasqua, ma il successivo a Onde Riflesse, una tre giorni che ci sarà al centro sociale Next Emerson, qua, insomma, di Firenze, qua a Firenze. Parlerà di radio, ci saranno le radio indipendenti italiane in un grande meeting. Fra l'altro il venerdì sera ci sarà anche un importante talk sul radiospazio assieme al Dipartimento di Ufologia e Scienze Ellenistiche. Approfittiamo per annunciare un attimo il tema di questo talk del venerdì sera. Certamente il DUSA, nella forma di un suo ricercatore, sarà molto lieto di presenziare, e con un talk a tema radioastronomia e ricerca di intelligenza extraterrestre. Quindi venite numerosi, mi raccomando. Il prossimo venerdì, no, fra due venerdì, al centro sociale Next Emerson, su onderiflesse.noblogs.org, il programma per intero, evviva, sarà bellissimo. Ma torniamo a noi, Allora, prima di chiedervi, Gengè, Dusa, se avete delle domande, delle curiosità, dei commenti da fare, io farei al maestro l'ultima delle domande che ci è arrivata. Allora, se mi chiedete un'altra volta le coordinate galattiche per... No, scherzo. Per... No, non lo dovevo dire. Arrakis. Dove il DUSA sta organizzando i nuovi Erasmus, forse? Assolutamente. Chiaramente non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali incidenti con i vermi delle sabbie. Sava Sandir. Ricordiamo per anche eventuali abduzioni. Esattamente. Ricordiamo, per chi volesse magari prepararsi, che può visionare il documentario Tremors, di cui già parlammo nella prima puntata assieme a voi, magari. Consigliamo anche il laboratorio di jihad applicata per, certo, prepararsi. E nel frattempo posso lanciare un crowdfunding per il mio documentario Raw. Sì, per favore, facciamolo adesso, dateci soldi, un sacco di soldi. Spediamo il maestro in Egitto. Facciamolo. Ci sono già stato almeno 3 volte con la mente. E nelle vite passate? Bravissima. Non lo puoi sapere. Almeno 5. Ah, lo puoi sapere? Hai avuto connessioni? Questa è una domanda seria per il maestro. Sì. Hai avuto contatti con le tue vite passate? Incredibilmente sì. Che tipo di contatti? Quando? Dove? Cosa è successo? Io voglio sapere so tutto. Che in una delle mie precedenti vite, non so bene se quella subito precedente a questa o quella dopo, sono stato ucciso attraverso una, cioè, come dire, in una con una morte, cioè sono morto in una morte violenta. Questo e è se fosse la vita attuale, ho puntato una pistola. Ma era soltanto un'ipotesi, non è successo. Era un déjà vu. Maestro, ma e come mai lo sai? Come fai a saperlo? Io lo sento. So. Io avevo chiesto i contatti con le vite passate e tu mi rispondi: io lo so perché lo sento. Io mi scusi, sento, maestro, io sento, non mi sembra sufficiente. Io sento, io ad un certo punto ho capito. Se vuoi faccio tutto un racconto anche più articolato, non c'è problema. Ad un massimo certo, 3 minuti, articolato. Ad un certo comunque punto poi della... dopo posso condividere una mia teoria? Sì, te ne prego. Sentiamo il racconto articolato però del maestro. Però a che fare con le vite breve, passate? Però. Ad un certo punto del, come dire, della mia esistenza ho sentito uno strano tipo di vuoto intorno al plesso solare. Se non sapete cos'è il plesso solare, sono cazzi vostri. E questo vuoto ti ha... Questo vuoto mi ha fatto porre delle domande, mi sono posto degli interrogativi, ho cercato di venire a capo di questa cosa. Perché sentivo un vuoto in quella zona? E poi ho fatto dei sogni e poi ho avuto delle visioni. Tutto questo ti ha portato a comprendere che forse nella tua precedente... Io sono sicuro che o nella subito precedente o in quella subito prima sono morto trafitto da una lancia che mi ha trafitto al di sotto del costato. Analogie? con la lancia di Longino. La lancia di Longino, ma la lancia di Longino l'ha colpito nel fianco. Mi è appena venuta una domanda. A me in realtà mi ha colpito nel plesso solare, subito sotto lo sterno. Al centro, subito sotto lo sterno. Ho una domanda sulla reincarnazione. Posso? Non sono la seconda venuta di Gesù Cristo. No, se questa... questo non avevo Maestro, dubbi. Lei è la madre di Ikari Shinji? Ecco, qui ci avviciniamo alla verità. Ci stiamo avvicinando. La verità. Aggiunge la domanda generica. No, allora, forse aspetta, non però, perché qui ci sono troppi input. Perché la domanda che mi è venuta in mente è... quando si passa da una vita all'altra, si saltano anche secoli e secoli e secoli? Ah, dipende da quanto sei pronta o pronto a reincarnarti. E se non ti reincarni, tipo io adesso muoio, faccio corna, e che succede? Se non mi reincarno immediatamente, che fine faccio e per quanto tempo, cioè, che sono nel tempo in cui non mi reincarno? Io credo che ti puoi tranquillamente parcheggiare in una sorta di circolo arcicelestiale, ok? Pazzesco. Dove ti fai una serie di canne, grappini, sì, o quello che vuoi, insomma, passi il tempo, fai il biliardino finché non sei pronto. Finché non sei pronto, non ti va di nuovo di esperienziare. Perfetto. Ma io, sì, professore, ci mancherebbe. No, volevo dire che è una visione escatologica decisamente più invitante di quella proposta da, insomma, le religioni di massa. Perché l'idea di giocare a biliardino per l'eternità mi stuzzica molto, devo c'è dire. C'è anche un ping pong. Anche se sì, la mia difesa è terrificante. Sì, sì, vabbè. Criterio di veridicità hai mi l'eternità stuzzica molto. Per affinarla. Ma qualche Anunnaki che ha preso anima c'è? Perché se sì, cosa succede a quegli allora, individui vorrei a cui anima ricapire è stata? La domanda, nel senso, un Anunnaki... Ovviamente faccio calcio con le puntate precedenti. Anunnaki, scusate. No, non lo so, boh. Un Anunnaki, sì. In realtà, forse. Chi può dirlo? Forse tu. Un Anunnaki precedente. Un Anunnaki ha preso l'anima di un individuo. Cioè, ma in realtà... L'ho capito, non è... Anima è... No, io voglio dire questa cosa. Sì. Può essere che sia successo, però sicuramente... il ratto delle anime, sì? Non è nell'agenda Anunnaki. Gli Anunnaki erano qui sulla Terra per altre cose, ma se avessero preso anche quella cosa lì, cosa le hanno fatto? Probabilmente, semplicemente, hanno allungato la propria vita. E quell'individuo la cui anima è stata... Questa è la teoria malanghiana. Sì, diciamo. Ma invece l'individuo che ha perso l'anima... Muore. E non si reincarnerà mai più. No, perché è l'anima che si reincarna. Certo, per quello chiedevo. Sì, sì, sì, sì, sì, questo è diciamo, la fenomenologia. Ma ha mai sentito parlare di corpi reincarnati in anime? Bellissima. Non vuole dircelo il maestro, penso che sia un livello di conoscenza che non siamo ancora pronti a ricevere. Allora, corpi reincarnati in anime, nel senso, quindi... Adesso siamo nel punto di vista del corpo e quindi effettivamente da questo punto di vista l'anima abita i corpi in qualche maniera. Il professore è soddisfatto. C'è un'altra suggestione in questo senso che viene da niente po' di meno che Heidegger, che diceva fatto stamattina a lezione. Diamogli un epiteto, ecco, fra di noi, il professore, lo scrittore, come lo chiamiamo? Il nazista? Il nazista magari. Come lo chiamiamo? Con tutta, come dire, lo sugar daddy di Hannah Arendt. Bene, quindi lo sugar daddy di Hannah Arendt, Heidegger. Cosa ha detto? Heidegger in uno dei suoi... Niente male, professore, comunque lo vedo fresco. In una delle sue opere dedicate al linguaggio, che non mi ricordo in questo momento quale sia, sempre per il discorso della bibliografia pronta e, come dire... Dettagliata. E frattale. Frattalissima. Questo Heidegger diceva che il linguaggio abita l'uomo. Il linguaggio ci abita in qualche modo e in questo senso dire che l'anima ci abita come corpi mi crea proprio un grande parallelismo con questo concetto, perché in questo senso Heidegger vedeva il linguaggio come un essere vivente che vive uno spazio, che in questo caso è il, come dire, corpo, no, la specie umana. Ho provato. nel caso invece dell'anima, bocciato. L'anima vive lo spazio che è il corpo, in questo senso. Ora, io c'è non ho fan. Approfondito la questione di Heidegger, infatti se vedevo, mi facevi di no con la testa, forse ho sbagliato tutto. È complicato. È complicato, è complicatissimo. Però mi piace molto pensare a questa semplice frase, a dire il linguaggio ci abita, o dire appunto un'anima ci abita, se da un lato ci vediamo come corpi, se da un lato ci vediamo come esseri umani, quello che sia. Quasi spinosiano il maestro. Qualcosa che ci abita. Io non mi sento invaso, però voglio dire questo, che alcune volte siamo scuottati più che abitati. E diciamolo. Diciamolo pure, diciamolo è pure. È molto se, meglio. Se ci troviamo d'accordo con la pratica politica dell'occupazione, come ci poniamo nei confronti di chi ci scuotta? Il corpo o l'anima, a seconda aperti. Del punto di vista? Aperti. Ok, accoglienti. Accoglienti. Va bene. Io comunque avevo una teoria sulle reincarnazioni. Sì, ma infatti ce l'avamo sentiamola, sentiamola, sentiamola. Allora, in questo libro che si chiama I Quattro Accordi di Miguel Ruiz, che è uno sciamano messicano. Ma è un canzoniere di Lucio Battisti? Anche, okay. È una sua reincarnazione. Sono la mi re. La mi re. Sol. La si minore. No, allora io, si minore. Io dico così. Sol. Scusa, c'è una cima un attimo incartati. Sol, re, la, mi. Sol, re, la, mi. Avevo detto sorella beh. Mi le mele. Esatto. Questa sudicio. È la quaggiura. Io voglio sentire la storia di... Allora, che lui è uno sciamano messicano che in questo libro espone la filosofia della sua discendenza d'appartenenza, che sono i Toltechi. Ah, i Toltechi, fichi i Toltechi. Sì. E insomma... Gli piacciono all'interno... a me studiare i Toltechi. Mi piacciono, gli vedo. E comunque il libro è molto interessante, espone tutta una serie di fondamentalmente guida pratica per uscire dal Matrix, come direbbero i nostri ricercatori. Ma perché? Chi vorrebbe mai uscire dal Matrix? Questa è un'altra domanda che secondo me necessita di più tempo per una risposta. E comunque a un certo punto, essendo una guida pratica, ti dà delle indicazioni pratiche su come uscire dal Matrix, fra cui quella di... potrebbe essere letta come una tortura o sadomasochismo, a seconda delle preferenze. Per me più la prima, forse. Comunque dice che se tu passi 10 minuti al giorno a guardarti nello specchio, guardando il riflesso dei tuoi occhi nello specchio, senza abbattere le palpebre, sopportando all'inizio il fastidio, l'irritazione, le lacrime, quello che succede, piano piano ti abitui a questa sensazione, la accogli, la fai tua, e aumentando sempre di più la quantità di tempo che riesci a fare questa cosa, iniziano a accadere cose. La tua visione si sfoca finché non perdi totalmente la visione dei tuoi connotati facciali nello specchio, fino a che a un certo punto riesci a rivedere nel tuo riflesso i te che sei stato nella vita passata. Ah, bellissima! Ma allora è facilissimo. No, l'ha mai se ci vuoi provare, io non lo farò mai. Posso assicurarmi gli occhi? Allora, no. Perché questa ce la teniamo caldissima per la prossima puntata, direi. Ma io questa lo la facciamo stanotte. In diretta. Ma io lo faccio stanotte. No. Ma no, però la pratica ti dice devi provarlo, cioè devi, ci vuole un po' prima che riesci a vedere le tue vite. Tipo se il maestro inizia a provare stasera, un paio di settimane, un mese possono essere sufficienti. Anche 2 giorni, sì. Ricorda, anche 2 giorni. Il maestro rilancia. Non aveva una data di scadenza, era una cosa molto bene, generica. Quindi maestro, la facciamo così, allenati bene, inizi oggi. Io sono la prossima puntata preparato. L'abbiamo già annunciata che sarà speciale sulle trasmissioni radiospaziali, eccetera. La successiva faremo questo esperimento in diretta col tuo allenamento per vedere se riuscirai a raggiungere quello stadio in cui per 10 minuti non sbatti le palpebre, ti guardi nello specchio, a un certo punto la tua vista si sfoca fino a che non riesci a raggiungere Gengè, questo stadio. No, finché non vedi nello specchio, cioè il tuo riflesso di, non di te attuale, ma delle tue vite passate. L'ho fatto e l'ho già fatto. Devo confermare il fatto, ricordo che il primo esperimento fatto con Gengè, quello sulla memoria dell'acqua, è stato l'unico fino a oggi che ha avuto successo nella storia di questa. Sarà un caso? Trasmissione? Non credo. Mi aspetto che anche il prossimo potrebbe effettivamente averlo, quindi invito chi ci ascolta, insomma, a rimanere sintonizzato per questo bellissimo esperimento. Ma il Dusa crede al caso? Ma dunque, Diciamo che un'opinione su una questione così complessa è difficile da dare, ci sono molte scuole di pensiero. Mi limito a far notare che esiste una certa religione, che non nominerò, della quale è anche controverso dire che sia una religione, fondata da un certo scrittore di fantascienza, a cui hanno appartenuto alcune persone molto famose, tra cui ad esempio Tom Cruise, forse il più famoso. Se non sbaglio è Scientology. La figlia di Tom Cruise. Tu l'hai detto. Diciamo che è un tipo di organizzazione che è nota per essere estremamente ostile contro chi ne parla. Comunque... Non è Scientology. Esattamente. Dunque... questa un importante come dire, dogma di questa religione consiste proprio nel fatto che a causare ogni problema per la vita umana, per gli esseri umani, sono quelli che vengono chiamati i cosiddetti engrammi, che altro non sarebbero che le anime torturate in tempi antichissimi di creature aliene che sulla Terra sono state uccise da una figura, una sorta di imperatore galattico malvagio, che però hanno continuato ad abitare per evadere la Terra. Ma io e ho capito chi sono questi qua. Sono... Questa scena è molto famosa perché è comparsa in South Park come descrizione delle credenze di questa religione. Sono i foggiani. Chiaramente. Un toscano loro. Direbbe i livornesi. I livornesi. Ma l'imperatore galattico è quello che sta venendo, che è stato ricoverato in terapia intensiva. Per favore! No, no! Comunque la morale è non trattate male le persone che poi si incazzano, no? Sì, sì, è quello che volevamo dire. Soprattutto se sono fondatori di una religione e scrittori di base, non trattate male le persone che poi se vi tirano i piedi di notte. Allora, Gengè, ho letto oggi che Yoko Ono una volta invitò le persone a fare un esperimento, che era questo: non parlare male di nessuno per tre giorni. Pazzesco. E vedere che cosa poi... Potremmo fare un doppio esperimento parallelo, provare a non parlare male di nessuno come chiede Yoko Ono per tre giorni e come chiede il maestro. Però no, chi come ci controlla? Lo facciamo sulla fiducia. Se la teoria della scimmia Vrenzola è vera e gli esseri umani sono evoluti grazie al gossip, allora facendo questo esperimento mi aspetto di svegliarmi scimpanzé un giorno. Avanti, siamo pronti anche a questo. Io sì. Sapevo dell'altro esperimento di Yoko Ono, cioè quello di far sciogliere la più grande allora band della storia. Possiamo fare che uno a testa, non deve fare il gossip e vede se è vero quello della scimmia Vrenzola. Uno si fa i funghi e vede che succede. Quell'altra era la scimmia l'acquatica l'abbiamo già fatta. Funghi cresciuti sulla cacca di quella di mucca, proviamo e poi ci troviamo qui e vediamo come stiamo. Esatto. È buono, è buono. E diventa un circolo di autoaiuto. Vediamo chi ne esce per primo. Caro maestro, è il momento dell'ultima domanda. Questa è diretta a te, ma vuoi dire qualcosa prima? Io voglio dire solo una cosa. Sì. Dopo tutte queste domande ce l'ho io una domanda dopo. La vuoi fare adesso? No, la ultima è la mia. Perché domanda bam, chi domanda ultimo. Eccolo. Allora, pronto maestro, te la faccio sentire, non si capisce un cazzo mi sa, però semmai te la traduco. È un audio che ci è arrivato dalla nostra messaggeria del Wombat, infatti chi ci vuole scrivere lo può fare anche oralmente, mandandoci una mail alla messaggeria del Wombat. Maestro, ora la riprendo, via. Maestro, sei pronto? Allora, riproviamo. Sente niente, assolutamente niente. Nulla. Allora facciamo una prova alla vecchia, lo metto davanti al microfono. Sì, ma... Scusate cari ascoltatori, cari ascoltatrici, facciamo questa mossa. Benissimo, passiamo alla base. Allora, maestro, riproviamoci così. Ti ascolta maestro, Dove sei? Allora, io innanzitutto vorrei una prova pratica che il maestro non sia l'unico vero alieno e che lui ci sta informando su tutte queste razze alternative solo per confonderci. Mi faccio pensare che ci sono tantissime razze, in realtà c'è un solo alieno del maestro. Allora maestro, ti chiedo, non so se hai capito qualcosa, ma ti chiedono una prova del fatto. Ho capito tutto. Io non darò nessuna prova perché qui ci stiamo avvicinando alla realtà, forse. Forse hai scoperto qualcosa, bello. Comunque, per chi non ha capito niente, l'audio chiedeva se il maestro era l'unico vero alieno. E gli chiedeva di fornire delle prove affinché così non fosse. Il maestro ha detto: forse ti stai avvicinando invece alla realtà, bello. Questa è la risposta del maestro. E poi, soprattutto, però, come fai a sapere che io esisto? Certo, come fai a sapere che non sia un'intelligenza artificiale che formula la voce del maestro? E se i veri alieni fossero gli amici che ci siamo fatti lungo la strada? O se i veri alieni fossero dei ventriloqui? E se i veri alieni non esistessero? Ma se lei non esiste, perché si tinge i capelli? Comunque ha dei bellissimi occhiali, maestro. Occhi, si dice occhi. Qualcosa che non esiste può portare gli occhiali? Sì. Maestro, ma invece l'ultima domanda, perché me l'ero persa, scusami, velocemente. La questione è stata la domanda più interessante finora. Questa, a cui abbiamo dato la risposta peggiore, comunque. Quella di Gen.G. Sì. Sì, non questa che abbiamo sentito. Quest'ultima, può qualcosa che non esiste portare gli occhiali? È stata la domanda migliore di stasera per me. Non avevo capito, scusa. No, l'ultima era sul... perché siamo veramente in ritardo. Velocemente, maestro, sì, sul gruppo sanguigno. Com'è questo fatto che chi c'ha l'RH negativo Cristo, è un alieno? Ma chiariamolo una volta medicina, per tutte. Ma perché mi viene chiariamolo una volta il per tutte. Allora, questi sono problemi vostri, nel senso, non mi dovete scassare la minchia. Io dico le è cose. Piena, e poi è piena lei. Io dico le cose e poi voi le andate a verificare, andate a fare ricerca. Non è che io dico le cose e poi mi chiedete di fare ricerca. Che te cazzo? Sentenzi, il tuo ruolo è un altro. Esatto. Allora, esatto. Sentenziamo una volta per tutte. Sì. Su questo fatto del gruppo sanguigno. Sì. Prego, maestro, una volta per tutte, non nemmeno troppo tempo, perché voglio dire. Ok, allora, è un po' arzigogolata. Ma la noi cosa. La facciamo semplice. Cioè, se tipo... Chi c'ha? Sei, se secca. Sei una madre che ha avuto già un... come dire, con l'RH negativo. Gen.G, presta attenzione, per favore, perché hai richiesto quasi di certo un tuo commento. Che ha cosa. Già avuto come prima gravidanza un figlio con RH non negativo, quindi per forza positivo. Se poi ha una seconda gravidanza con figlio RH negativo, lo perde al 100%. Questo è quello che dice oggi la scienza. E si parla di bug, come dire, evolutivo, nel senso... è una cosa che non torna, perché nessun altro mammifero presenta questa condizione. Ora, che questo sia la prova del fatto che ci siamo, come dire, evoluti sia dalle scimmie che da un innesto alieno, non è così evidente, perché siete, come dire, lenti e non c'è problema. Non me l'aspettavo questa svolta, scusate, maestro, il microfono. Quando sentenzia, sentenzia. Allora, ma in realtà ci sta comunque, dopo tutto, Gen.G, che una donna che ha un figlio, com'è, che ha un figlio con RH io, negativo... Io non voglio sbagliare in questo senso, però penso che sia una donna con RH negativo, non... che ha come primogenito o primogenita... A sua volta un RH negativo? Un RH, no, positivo. Positivo non può... Non può più avere altri figli con RH negativo, ma solo positivo a quel punto. Però il primo ce l'avevo positivo. Sì. Se però invece... è la donna con RH negativo. Eh sì, la madre. La madre, la sì. Madre, insomma, che porta avanti la gravidanza. Io dico solo che se c'è una qualche forma della pancia che dimostra scientificamente che il figlio avrà l'RH negativo, allora tutto questo ha senso. Se no, io non voglio ascoltare queste scempiaggini. Però invece del fatto che il pendolo ti dice il sesso, oppure no, ma l'RH lo puoi sapere da subito, da prima che diventa. No. Io voglio cazzo, sapere maestro. Se la levatrice del paesino della Cambogia inferiore, sì, okay. Con, scusate, guardando la forma della pancia, sa se il figlio è RH negativo. Perché se qui si tratta di problemi evoluzionistici della specie, la levatrice della Cambogia inferiore lo sa, come le levatrici dei paesi limitrofi a noi che ancora conservano queste conoscenze. Cioè, insomma, questo è il mio punto. E quindi cosa succede a quel punto? Anche il tuo paese di provenienza le conserva certe tradizioni? Dipende dai luoghi. Il Cilento sicuramente. Sulla forma della pancia, cioè, sono sempre su quello. Ma quindi sì. che cosa succede in quel senso? Cioè, nel senso, quindi se succede che non che si capisce che c'è una, come dire, un bug evoluzionistico. Ma banalmente hai un figlio, sei il primogenito che è RH negativo. Tranquillo, nascerà sulla base di quello, no, la seconda RH volta. Positivo, RH positivo il primogenito. Positivo, vabbè. Sulla base di quello, poi la prossima volta, la volta dopo, non rimane incinta. Ah, ok. cioè non si fa rimanere incinta la persona, si elimina alla radice il problema. Ho capito. A questo servono queste conoscenze. Certo, che sono fra il resto, come dire, anche quasi più avanzate da un certo punto di vista che non quelle che sono, tra virgolette, scientifiche, accademiche e vogliono spiegarci o non spiegarci, come in questo caso, perché succedono le cose. Esattamente. Forse dovremmo più pensare a trovare, come dire, delle soluzioni / come dire, interpretazioni, anziché stare a pensare al perché. Forse ci siamo da sempre posti la domanda sbagliata. E infatti, come avete fatto più o meno finora voi? Finora. Voi ascoltatori o voi del DUSA? Con chi stai quelli combattendo? Quelli che m'hanno... No, che del DUSA, sono amici. Colleghissimi. Sempre onorati. Emeriti, no? Io parlo di chi ha posto la domanda. Le domande. Certo, maestro, ma quindi, scusa, sentenziando, praticamente, proprio banalizzando, chi ha l'ARH negativo è più in contatto con la sua... con la sua antica genitorialità aliena? Più che aliena direi diversamente terrestre, perché a quanto pare chi ha aliena non è inclusivo. Chi ha l'RH negativo non è una specie aliena, ma è un'altra specie terrestre più o meno affine agli esseri umani odierni. Io ora ho una domanda da fare. Ma è più figo o meno figo chi ha l'RH? Basta con queste domande banali. Adesso io ho bisogno di prendermi uno spazio, voglio fare io una domanda. Ok. È tu il microfono, maestro. Sì. Ci siamo da sempre interrogati appunto su questo tipo di questioni. Io vorrei chiedervi una cosa, sì, a chi ci ascolta, ma soprattutto a chi non ci ascolta. Avete mai pensato di spegnere ad un certo punto questa curiosità che va nella direzione di un perché? Perché? Ma che vuol dire perché? Ma io ti dico perché, per esempio. Non ha nessun senso perché. Cerchiamo di vivercela tranquillamente, in maniera, come dire, di trovare delle soluzioni abbordabili. Io parlo di questo, soprattutto di soluzioni abbordabili. E soprattutto smettetela di porre domande alla persona sbagliata, perché in questo caso la persona sbagliata sono io. Non le troverete qui le risposte. Le risposte le troverete in un buco. E quel buco è dentro il vostro petto. E l'ho fatto io. Vi ho sparato. Io mi rendo conto, sì, lo so, non so che io aggiungo. Cosa vuoi aggiungere? Lasciamo la base, ma... Difficilissimo intervenire, ancora un po' di base. Wow. Qualcosa da obiettare o tutto da sottoscrivere? In realtà, sì, maestro, io ora farò una confessione, io volevo dire un'altra cosa. Ho improvvisato perché non mi ricordavo quello che volevo dire. Certe volte la saggezza arriva nei modi più inaspettati. Io credo che il maestro dovrebbe proprio fare slam poetry, perché queste uscite sono di una profondità veramente incredibile. Ti è sovvenuto il tuo discorso iniziale, maestro, oppure se n'è andato? Non importa. Sta spetalando fiori. Allora, il discorso iniziale... Ah sì, era sulle domande, sulla appunto futilità delle domande. Magari come... come dire, come funziona? La domanda è sbagliata. Forse siamo insicuri perché ci poniamo delle domande. Andiamo dritti. Non poniamoci più delle domande. No, diamoci solo delle risposte. No, sì, esatto, diamoci solo delle risposte. E non pensiamo al fatto che siano vere o sbagliate. Lisbona come... esatto, magari 7. Sì, e magari ti hanno chiesto la capitale. Maggiore di 5. E questa è la risposta, che ne so, alla domanda: qual è la capitale dell'Uzbekistan? Maggiore di 5. Cioè, nel senso, questo è il livello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di livellare, di silenziare i livelli. Togliamoli, non ci sono i livelli, non c'è una geometria, appunto, non c'è più niente. Dobbiamo arrivare al core a noi stessi. Cosa c'è oltre questo al nocciolo? Ecco, mi è sovvenuto quello che volevo dire. Parla e riparla alla fine. E ora ce l'ho. Voi che fate tante domande, a voi parlo, ma lo sapete quant'è la percentuale di esseri umani dotati di anima? Che faccio sulla base, ci dai la risposta, spiegami cosa fare. Ah, questa sarebbe la domanda migliore. No, aspetta, è la domanda punto... che hai fatto, giusto? Scusami. Gengè, cari del Dusa, avete una risposta? Io sapete quanti ho dissociato, sono gli ripeti. La domanda, ripeto, la domanda è questa. Avete per caso idea di quanti individui tra gli esseri umani sono dotati di anima? Non so quanti sono gli esseri umani, quindi non posso farti una percentuale. 7 miliardi. 7 miliardi, ora lo puoi fare. O 8, giù di lì. 7 o 8. In crescita. Io dico che ci sono più anime che esseri umani. Bella questa risposta. Siamo lontani dalla verità. Ci provo io, allora, prima del Dusa. Prima i profani. 2%. I nostri professori qui avranno sicuramente una risposta migliore. Il professore di statistica si sta scaldando l'ugola. Cosa intendiamo per anima? Intendiamo la capacità di reincarnarsi. Le basti questo, Doc? Io dico 33,3 periodi. E sei incredibilmente avvicinato. Questa. E sei incredibilmente avvicinato. Certo, ovviamente. Certo. È molto, siamo lì, diciamo, tra il 35 e il 25%. Quindi. Però io calcoli più accurati forse potrebbero portare a dico questa cosa qui. A voi che mi avete posto queste domande, fatevi un esame di coscienza. Sì. Perché se non ne siete in grado, forse è perché non avete l'anima. Boom, sono tutti molto contenti. Maestro, com'è la percentuale fra il 30? Si è alzato intanto, se ne va festeggiando. Mic drop. No, ma fra il 35 e il 25 e il 35%. Sì, va bene, grazie. Va bene, maestro. Bene, è difficile, mi rendo conto, aggiungere qualcosa. È il momento dei saluti e degli arrivederci, però, cari, perché l'abbiamo grandemente sforata. Allora, ricordo gli appuntamenti. Fra due settimane, di nuovo qua su Radio Wombat, con la prossima puntata di Lezione Universale di Esistenza. Fra due fine settimana, cioè non questo, ma il successivo, in particolare il venerdì, con il talk del Dusa, il venerdì sera, all'interno di Onde Riflesse, onderiflesse.noblogs.org. E a chi ce lo chiede, sì, i festival GKN e Claridade di letteratura saranno pubblicati questo fine settimana sul sito della radio, tutti gli eventi e talk. Gengè, il maestro se n'è andato. Ma il maestro ha la libertà di fare ciò che più lo aggrada. Chi lo ferma, infatti? Anzi, penso che l'abbiamo tutti. Allora, ci risentiamo. Potrei andare per via il prossimo anch'io. Esperimento. No, per favore, aspetta un attimo. Per il prossimo, non lasciarmi col Dusa che mi spiazzano, che poi mi danno troppe verità e non so come gestirle. Per il prossimo. Vieni da noi. Ma sono all'altezza? Accettereste anche una matricola come me? Chiunque è ben accetto purché sia disposto ad imparare. Bene, ma ci sono quindi dei tutor, dei, come dire, degli studenti che svolgono una funzione di avvicinamento? Assolutamente, ci sono servizi di tutorato che riguardano sia l'orientamento in ingresso che necessità di tipo amministrativo e di tipo didattico, quindi sia ad hoc per ogni corso che per una gestione generale del corso, la compilazione del piano di studi, o meglio, la compilazione dello spazio di studi, del manifold di studi, del frattale di studi, insomma, ci siamo capiti. Certo. Rispettiamo le figure geometriche, semplici. Semplici, anche i frattali però. Mi dispiace, maestro, non sono d'accordo su questa seconda battuta. Anche quelle complesse. Comunque, il Dusa voleva salutare con un'esibizione a cappella di Roadhouse Blues dei Doors, però ci rendiamo conto che siamo... Accadrà davvero, professore? No, non accadrà davvero, purtroppo. Peccato, e allora vi chiediamo... La prossima volta porto la chitarra, me lo dite. Se canta il Dusa, maestro, portala. Io la prossima volta faccio... Il Dusa non canta. Io Roadhouse the Blues la canta. Cioè, chi canta? Cioè, il professore comunque... Scopriamo che il professore ha un'anima karaokina. Roadhouse Blues dei Doors io la conosco. La so fare. Bene, professore, allora per la prossima sentiremo il suo tono. Keep your eyes. Oh, che grande anteprima, che grande anteprima. Molto bene. Allora, che altro dire? Sicuramente evocheranno qualche spirito che si manifesterà in questa stanza dopo questa esibizione. Ok, che spirito sarà, di che tipo? Non lo sappiamo, io del, non lo so. Del re Lucertola, ovviamente. Ah, okay. Morris. Certo, certo. A proposito di Lizard, che non c'entra niente come chiusura, proprio un aggancio casuale. Grazie. A proposito di Lizard, grazie. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato. Grazie al Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche, grazie a Gengè. Grazie ai radioascoltatroci, è sempre bellissimo tornare qui in radio. Radioascoltatroci, è davvero un piacere. Grazie, caro maestro Ottani. Radioascoltatroci è la mia nuova parola preferita. E a fra due settimane. Viva Radio Wombat, sempre viva. Viva il Wombat! Roger, we got it, we've lost it. Who's the other kid?